Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette 8 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui torna per la prima volta, debutta anche nel 2020, diciamo così, da poco, invidiabile classifica della settimana. Devo dire che purtroppo passano gli anni, ma la classifica vede, ahimè, quasi sempre gli stessi protagonisti. Allora, l'altro tema di cui ci occuperemo, al di là dei mercati, riguarda di nuovo la vicenda Aspi, Autostrade per l'Italia, perché c'è oggi anche un po' di dubbio, perché da un lato è emerso che sarebbero praticamente 200 le gallerie a rischio lungo tutta la rete autostradale italiana, 105 sulla rete autostradale in concessione ad Aspi, Autostrade per l'Italia, e altre 90 in concessione ad altre società. Questo avrebbe rilevato a novembre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con una lettera inviata ai Vigili del Fuoco e a tutti i provveditorati e le opere pubbliche. Il documento è stato acquisito dalla Guardia di Finanza di Genova, secondo la quale i tunnel lunghi oltre 500 metri presentano pericolo di incidenti e crolli, non sono impermeabilizzati, sono privi di sistemi di sicurezza e di corsie di emergenza e vie di fuga, nonché di luci guida in caso di evacuazione, cioè tutte gallerie non a norma con la direttiva europea 54 del 2004. Tra le 200 gallerie figura anche la Bertè, quella della 26, dove sono crollate 2 tonnellate di cemento dalla volta. La Procura di Genova ha acquisito questi documenti perché ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per crollo colposo. Gli investigatori stanno cercando di capire se la società fosse a conoscenza delle reali condizioni del tunnel. Tra l'altro ricordo che la Bertè era stata controllata dai tecnici di Spea, che è la società controllata da Atlantia, da Autostrade per l'Italia, che si occupava delle ispezioni e delle manutenzioni, e classificata con un voto 40, un voto basso, che aveva innescato la procedura di programmazione dei lavori, però più in là nel tempo. Ora, il 90% delle gallerie Autostrade per l'Italia ha fatto sapere che il 90% delle gallerie citate è sottoposto a adeguamento, in alcuni casi già concluso. E poi AISCAT, l'associazione delle concessionarie autostradali, dice che non sono 200 le gallerie a rischio. Dopodiché oggi si è staccato un rivestimento, qui non si capisce, guardare le immagini non sembra una cosa così leggera, però insomma, nella galleria sull'A6 Torino-Savona, Ricchini la galleria, nel comune di Quiliano, la galleria è comunque rimasta chiusa in direzione di Torino, è riaperta solo in mattinata, dopo che i vigili del fuoco e la postrada avevano rimosso i materiali caduti e effettuato i rilievi. Però l'autostrada dei Fiori, che gestisce la A6, ha detto non si è verificato alcun crollo di intonaco, né tantomeno di cemento, si è verificata solo una piccola nuvola di polvere di vernice staccatasi dal fianco della galleria. Ora, per carità, io non ho dubbio, non metto in dubbio, ma se hanno chiuso la galleria o si sono sbagliati i vigili del fuoco e la polstrada, perché da come viene descritta una nuvola di polvere di vernice, insomma, quanto pesava sta nuvola di polvere di vernice? Adesso non voglio diventare esperto anche di nuvole di polvere di vernice, però mi sembra che qua giochiamo un po' al pesce in barile, con massimo rispetto chiaramente per i pesci e per i barili. Comunque di questo parleremo, perché al di là della vicenda di cronaca c'è tutto il tema del dibattito dentro al governo su cosa fare sulla concessione. Ieri ci siamo occupati della multa che è stata rifiutata e bocciata dall'esecutivo come soluzione alternativa alla revoca. Devo dire che oggi, se ho ben visto, anche Fratelli d'Italia si è dichiarata a favore, diciamo, di una revoca come posizioni politiche, però resta dentro il governo il PD più propenso alla negoziazione, ma i 5 Stelle invece insistono sulla revoca. Poi è interessante quanto dice oggi il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancellieri, che ha ribadito l'ipotesi di no a una penale o al taglio dei pedaggi. Altro che multe e penali, lo Stato deve ritirare la concessione, anche perché le inadempienze di ASPI sono reiterate. Vabbè, vedremo cosa succederà, ne parleremo comunque nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Intanto due notizie appena battute dalle agenzie. Il segretario del Tesoro americano Steve Mnuchin e il segretario di Stato Mike Pompeo hanno annunciato in una conferenza stampa nuove sanzioni contro Teheran per l'attacco missilistico iraniano contro due basi statunitensi in Iraq. Notizia che arriva invece da tutt'altro settore e mi riferisco a, diciamo, quello che si chiama food delivery, cioè il cibo, la consegna a domicilio del cibo. Dopo una battaglia a colpi di rilanci durata mesi, l'olandese takeaways.com ha avuto la meglio sulla rivale Prosus e ha acquistato il gruppo britannico di food delivery, appunto Just Eat, molto popolare in Gran Bretagna, ma non solo. L'offerta vale 7,2 miliardi di euro e praticamente L'80% dei votanti, degli aventi diritto al voto di Just Eat, hanno votato a favore. Nasce così il più grande gruppo europeo di food delivery con una capitalizzazione aggregata di 12 miliardi e mezzo di euro. I mercati, dicevamo, in questa giornata finale di contrattazioni, più 0,2 Milano, che torna sopra i 24.000 punti, DAX, quindi Francoforte più 0,16, Parigi invariata, Londra più 0,13, poco mosso oggi tutte le borse, Dow Jones invariato. Tra i titoli oggi segnaliamo Ferrari più 2,20, Italgas più 2, Enel più 1,90, Snam più 1,5 come Terna, l'1,1 lo guadagnano A2A e Saipem, l'1% Exor. Il fronte opposto vede Finecobank meno 2,60, Nexi meno 2,20, ST Microelectronics meno 1,70, Diasori meno 1,40, come Unipol l'1,30 lo perde Salvatore Ferragamo, l'1,20 UbiBanca, ma anche il banco BPM. Notizie di carattere internazionale: oggi c'è un dato molto importante sulla disoccupazione americana. Perché? Perché pur avendo creato 145.000 posti di lavoro, la disoccupazione negli Stati Uniti resta ferma al 3,5%. Gli analisti si attendevano un po' di più, si attendevano 160.000 posti creati, però il dato sul 2019 non è così positivo, pur avendo superato i 2 milioni di posti di lavoro creati. Perché lo dico? Perché negli Stati Uniti si sono creati 2 milioni e 110.000 posti di lavoro nel 2019, ma nel 2018 erano stati 2 milioni e 700.000, quindi se ne sono creati 600.000 in meno. Ora spostiamoci alla Boeing, perché noi abbiamo dei dazi che la WTO ha permesso all'America di porre alle merci europee come, diciamo, non ritorsione, ma come conseguenza di quelli che sono stati giudicati aiuti di Stato europei al consorzio Airbus o Airbus, che purtroppo colpiscono anche alcuni prodotti italiani. Adesso attendiamo che la WTO si esprima invece sull'altro ricorso, che è diametralmente opposto, cioè l'Unione Europea ha fatto ricorso contro la Boeing accusata di aver avuto aiuti di Stato americani. Nel frattempo però la Boeing è nella bufera. Perché? Che cosa è successo? Abbiamo molte volte parlato del 737 MAX, che adesso è bloccato a terra, ma insomma ci sono stati due incidenti gravissimi, 29 ottobre 2018 in Indonesia e 10 marzo 2019 in Etiopia, sempre il 737 MAX. Ma è successo che sono emerse alcune mail interne, o meglio documenti interni della società, in cui gli stessi dipendenti prendevano in giro non solo le autorità, ma proprio l'aereo 737 Max. Addirittura uno scriveva: è stato progettato da dei clown e controllato da scimmie. E poi emerge come i dipendenti della Boeing hanno convinto, anche ricorrendo alcuni trucchi, le compagnie aeree e le autorità, che non fosse necessario nessun addestramento con i simulatori per i piloti del velivolo. Sappiamo che c'è stato un grosso problema proprio dei piloti sulla, diciamo, sulla operatività del velivolo. La società si è scusata con la Federal Administration Aviation, con il congresso, con le compagnie aeree clienti. Il linguaggio usato non è in linea con i valori, ma più che il linguaggio oserei dire alla Boeing anche il tipo di aereo che avete costruito non è in linea con i valori di un gruppo serio, dai. Veniamo all'Europa, dove il nuovo fondo europeo, quello lanciato per la transizione verso un'economia verde, che è l'architrave della politica che ha illustrato la nuova presidente von der Leyen, partirà con uno stanziamento di 7 miliardi e mezzo e dal 2021 permetterà di finanziare con risorse pubbliche, cioè europee, la modernizzazione di grandi impianti industriali, la bonifica di siti contaminati. Questo è importante perché potrebbe riguardare anche la nostra ex Ilva, e cioè potremmo bonificarla senza violare le regole europee sugli aiuti di Stato e utilizzando appunto il fondo europeo. Questa è la bozza che la Commissione europea presenterà martedì prossimo. Veniamo all'Italia. Allora, al di là del, se abbiamo una pagina lunga sulle dichiarazioni del ministro Gualtieri sulla Popolare di Bari, però andando all'Italia, dunque, lo spread è sceso ulteriormente, adesso è stabile intorno ai 156 punti, il nostro BTP a 10 anni rende l'1,36%. Abbiamo collocato oggi 7 miliardi di botto a un anno e il rendimento è stato ancora in calo, meno 0,24% contro un meno 0,19% del collocamento precedente, con una buona domanda, una volta e mezzo l'offerta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per prestare soldi all'Italia, grazie al quantitative easing di Draghi e confermato per ora dalla Lagarde, e grazie ai tassi bassi, si accetta di prestare soldi allo Stato italiano perdendoci, nel senso ritirando gli stessi soldi con un meno 0,24% dopo un anno come rendimento lordo, e quindi la dice lunga sulla difficoltà anche dei capitali di muoversi verso investimenti più remunerativi. Comunque va bene per noi, perché vuol dire che paghiamo non solo meno interessi, andiamo in interessi negativi, cioè ci guadagniamo, tra virgolette, come Stato, a farci prestare dei soldi. Dunque, mi scrive un ascoltatore che causa il problema delle 737 Max, l'azienda che dirige ha avuto cancellazioni per oltre 700.000, mi sembra di leggere correttamente, non 7 milioni di ordini nel giro di 2 mesi. Sì, lo so che ci sono molte aziende, alcune anche italiane, che sono fornitrici della Boeing, però insomma non è che in questo caso non è colpa delle aziende fornitrici, è colpa dei costruttori della Boeing, ma non è che possiamo far volare l'aereo dopo quello che è successo, perché i 2 incidenti che ho citato sono incidenti mortali, non sono incidenti così avvenuti nella fase di taxiing dell'aereo senza vittime. Comunque, spostiamoci sull'Italia. Oggi i dati sulla produzione industriale vedono a novembre un più 0,1% sull'ottobre, ma un meno 0,6% sull'anno prima. Da gennaio e novembre il dato a questo punto sulla produzione industriale italiana è di un meno 1,1% rispetto a gennaio e novembre del 2018. È tornato un po' a salire in positivo la produzione di autoveicoli, e sulle dati della produzione industriale, ma anche sulle prospettive che stanno arrivando dai vari dati, è intervenuto oggi a margine del protocollo d'intesa tra Confindustria e Confimprese, che si è firmato qui a Milano, nella sua Lombarda, il presidente Confindustria Boccia. Ascoltiamo al microfono della nostra Livia Zancaner. Resta negativa ed è il motivo per cui dobbiamo reagire. Resta negativa in chiave globale e i dati previsionali non fanno ben sperare. Ricordiamo che siamo un paese ad alta vocazione all'export e da questo dobbiamo ripartire. Una cosa importante che stiamo cedendo da tempo è lavorare a un grande piano infrastrutturale per il paese, che abbia due elementi di attenzione. Uno chiaramente è il nodo risorse e l'altro è la questione temporale. In quanto tempo facciamo le cose che diciamo? Su questo dovremmo aprire un grande tavolo di convergenza paese, perché sarebbe anche una grande operazione di cosiddetta politica economica anticiclica per attivare cantieri e quindi incrementare l'occupazione, collegare territori e includere persone. Restano aperti tanti nodi, dobbiamo chiaramente affrontarli ma andare anche oltre l'emergenza. Non possiamo parlare ogni giorno solo dell'emergenza ma guardare al futuro del paese in un piano di medio termine. La nostra idea è molto chiara, l'abbiamo sottolineata da tempo, speriamo che in questo tagliando che il governo intende fare in gennaio si affrontino questi fini nell'interesse del paese e che la questione economica sia prevalente per risolvere anche le grandi questioni politiche del paese. La vicenda, allora, Popolare di Bari, prendi tutto il dato della Banca d'Italia di oggi che ha segnalato come a novembre le sofferenze bancarie rispetto al novembre del 2018, cioè i crediti che le banche hanno erogato e non riescono più a riavere, sono calati, cioè le sofferenze sono calate del 23,5%, un buon dato, anche a ottobre era molto in calo del 21%. Sulla Popolare di Bari, oggi continuano le audizioni, è stata la volta del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che ha detto i recenti accadimenti, io potrei aggiungere anche quelli passati, confermano ancora una volta che il nuovo regime europeo per la gestione delle crisi bancarie si segnano spartiacque e quindi il mondo bancario deve sostanzialmente agire preventivamente. Sentiamo Gualtieri. I recenti accadimenti confermano ancora una volta che il nuovo regime europeo per la gestione delle crisi bancarie segna uno spartiacque nella gestione dei dissesti bancari. Lo spazio per misure di intervento pubblico si è progressivamente ridotto, per tale motivo è quanto mai opportuna un'attitudine proattiva da parte del sistema bancario nell'affrontare la gestione delle crisi al fine di intervenire in uno stadio precoce e minimizzarne i costi per il sistema bancario e la collettività tutta. A questo riguardo vorrei ricordare che per la soluzione delle crisi bancarie di banche di dimensioni più contenute, il governo e le autorità italiane tutte sono fautrici in sede europea di proposta dell'utilizzo in via preventiva o alternativa dei fondi di garanzia dei depositi alimentati dalle stesse banche, replicando in sostanza il modello statunitense della Federal Deposit Insurance Corporation. Beh, qua si va un po' sul tecnico, poi Gualtieri che cosa ha detto? Ha detto che la ristrutturazione della Popolare di Bari è prevista entro metà dell'anno, che con la liquidazione, che bisogna evitare la liquidazione della banca perché il danno sarebbe molto forte sul tessuto economico sociale della Puglia, del Mezzogiorno e anche della provincia di Orvieto. E poi ha detto la trasformazione della Popolare di Bari in SPA, l'ingresso del fondo interbancario del medio credito centrale comporteranno effetti di rilievo sulle dimensioni e sulla partecipazione degli attuali azionisti, ma non vi saranno impatti per chi ha i depositi, per chi ha il conto corrente. Questo intervento peraltro appunto consente di non avere un tema di obbligazionisti subordinati, l'intervento consentito di evitare conseguenze negative su correntisti, risparmiatori, obbligazionisti, imprese. È evidente che la trasformazione della BPB in società per azioni e l'ingresso del FIT del DMCC nel capitale della banca comporteranno effetti di rilievo sia sul valore che sulle dimensioni della partecipazione degli attuali azionisti, mentre per i depositanti non si prevedono impatti, come ho detto. Sono lieto anzi che dare questo messaggio, che è stato messo in sicurezza, sono stati messi in sicurezza i depositanti, i detentori di titolo di debito, comprese quelle subordinate, tutto il tessuto di imprese, clienti della banca. Si auspica, per quanto riguarda gli azionisti attuali, l'auspicio è che nell'ambito del proprio intervento il fondo interbancario possa considerare forme di incentivo a favore dei piccoli azionisti che siano investitori al dettaglio, coniugata a strumenti di composizione delle controversie in corso. Vabbè, alcuni mi scrivono di Monte dei Paschi, ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. Il miglior titolo oggi in borsa, più 19,70%. Chiudo con le banche, che voglio passare alla classifica, con Veneto Banca. Perché? Perché la Procura della Repubblica di Treviso ha chiuso le indagini sul crack e l'azzeramento dei titoli di Veneto Banca e ha formulato l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa nei confronti di sei indagati, fra cui l'ex ministro delegato Vincenzo Consoli. Secondo il pubblico ministero, il top manager assieme ad altri dirigenti responsabili dei vari reparti avrebbe strutturato un sistema volto a raggirare la clientela attraverso la vendita a condizioni inique di azioni e obbligazioni, e ogni protagonista della rete era consapevole della ingiustificata sopravvalutazione dei titoli ceduti a prezzi almeno del 40% superiore a una stima ragionevole, almeno a partire dal 2012. La circostanza in 4 anni ha provocato danni ai sottoscrittori delle azioni di oltre 107 milioni di euro e ha inserito alla procura anche le contestazioni per il meccanismo delle baciate, cioè le azioni che venivano acquistate tramite finanziamenti della stessa banca, no? Ti davano il finanziamento, così tu compravi le azioni e tenevi sul titolo. È il meccanismo identico alla Popolare di Vicenza, lì tra Vicenza e Treviso la distanza era pari a zero. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Non voglio commentare il ministro Gualtieri, mettiamola così, non è che proprio, cioè, la comunicazione sia il suo forte, ecco. Per adesso vedremo cosa capiterà alla Popolare di Bari. Andiamo sulla poco invidiabile classifica, partiamo bassi bassi, ma con una cosa incredibile. La classifica della settimana. Oh, io mi ricordo quel gioco che si faceva da bambini. Qual è il massimo per, ecco, no? Qual è il massimo per un impianto sciistico, secondo voi? Qual è l'assurdo per un impianto sciistico? No, lo dico perché qua parliamo della Sila, della Calabria. Il prossimo intervento che sento di qualcuno che mi dice: il nostro sud va valorizzato con il turismo, d'accordissimo nei principi, ma in classifica è anni che raccontiamo l'esatto opposto. Quindi o cambiamo la testa è inutile continuare con questa retorica. Certo che il nostro mezzogiorno e il nostro sud ha delle potenzialità enormi, poi però ci deve mettere anche la testa sul turismo. Non è che il turismo basti la spiaggia, la montagna e quant'altro per farlo. Allora lascio gli ascoltatori con questo dubbio: qual è il massimo per un impianto sciistico, l'assurdo per un impianto sciistico? La risposta dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti. Sì, ho sbagliato. Si diceva non qual è il massimo, ma qual è il colmo. Qual è il colmo per una pista da sci? Alcuni l'hanno imbroccata, altri l'avevano letta. No, poi c'è qualcuno che ci spinge a dire gli impianti costruiti all'opposto in modo che si debba salire con gli sci, con gli sci e scendere con l'impianto. No, non arriviamo a tanto, per carità. Però insomma, il colmo per un impianto sciistico è essere chiuso per troppa neve. E purtroppo è accaduto. È accaduto in Calabria, al centro per sci da fondo di Carlo Magno. Tra l'altro faccio notare che c'è la chiusura degli impianti a Lorica, nuovissimi impianti a Lorica, e sempre per neve, e adesso anche al centro fondo di Carlo Magno. Quelli di Lorica sono impianti per la sci da discesa. Ora, è incredibile, ma è così. Cioè, è a 1500 metri d'altezza, ha nevicato sulla Sila, ed è un complesso sciistico per lo sci da fondo, comune di San Giovanni in Fiore, all'interno del Parco Nazionale della Sila. È il più grande della Calabria, uno degli impianti principali del centro sud Italia, ed è anche il centro di sci da fondo più a sud d'Europa. Uno in un paese normale userebbe questo come campagna di marketing, come campagna: vieni a sciare laddove il mare incontra la montagna, laddove puoi vedere il Nord Africa dal lato, non lo so, le coste greche, niente, no. Sì, è come chiudere una piscina per allagamento, sono d'accordo, una spiaggia per un eccesso di sole. Allora, qual è, ma la cosa che mi fa più impazzire è che il problema è di tipicamente comunale e non so se il prefetto possa intervenire. Comunque, allora, chi deve mandare i mezzi per pulire la strada? Cioè la neve c'è, il problema è che la neve non va a guardare dove cade, cade anche sulla strada, capita di solito in montagna quando c'è la neve che cade anche sulle strade, ma nessuno vuole mandare i mezzi e nessuno ha capito se è responsabile il comune di San Giovanni in Fiore o quello di Casale del Manco. Del manco per niente che te mando i mezzi, più aggiungere io. La provincia che fa, non si capisce. Allora, nel giorno della Befana il centro è rimasto chiuso perché ha ripreso a nevicare. C'erano migliaia di turisti già sulla Sila, altri che volevano arrivare. Allora, prima devi fare la 107, la Silana Crotonese, dove l'ANAS, che pure ha fatto un grosso lavoro, ha lasciato anche dei lavori in corsi, ha attivato semafori che vanno a creare file chilometriche. Ma fin qua, voglio dire, ok. Poi però arrivi e la strada è chiusa, perché si rimpallano le responsabilità ai due comuni e, da quello che abbiamo capito, il sospetto che il comune che non ha un vantaggio perché è solo di transito non vuole pulire la... Ma io dico una cosa, ma al di là del comune di San Giovanni in Fioro, di Casale del Manco, ma volete pulirla sta strada? Mandate uno spazzaneve a pulire sta strada? Il prefetto vuole intervenire? Ma no, non lo so, ma stiamo scherzando? Ma immaginate se nel resto d'Italia vi fosse una diatriba tale per cui il comune, che magari è di passaggio perché va in una località sciistica e attraversi dei comuni, si rifiuta di pulire e dice tanto a me che me ne frega, quelli non risiedono mica da me. Cioè, ma saremo alla follia, alla follia. Andiamo al quarto posto, perché fin qua comunque l'impianto sciistico chiuso per neve e per eccesso per neve mi fa impazzire. Andiamo avanti. No, guardi, non è il problema che c'è troppa neve sulle piste, un problema. No, è che nessuno vuole pulire la neve, lo dico un ascoltatore, dalla strada. Non è che ha nevicato troppo e non si riescono a battere le piste o c'è un problema, figurati, quello può succedere. Nessuno vuole pulire la strada tra i due comuni, si rimpallano la responsabilità. Prefetto, dove sei? Andiamo avanti, non so di... Vabbè, andiamo avanti. Oh, qui iniziamo con i casi edificanti e andiamo da Cuneo a Catania e da Catania al Molise, perché contrariamente alla battuta che fanno alcuni che non apprezzo, il Molise esiste e adesso ve lo dimostreremo. Allora, intanto a Cuneo hanno beccato il primario di chirurgia dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, Claudio Novali, gli hanno sequestrato 17.000 euro a seguito di un'indagine durata 2 anni che ha verificato diversi illeciti. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, Novali avrebbe fatto circa 300 visite intramoenia, cioè con i soldi dei cittadini, senza emettere fatture fiscali, e poi, avendole svolte dentro l'ospedale, avrebbe dovuto girare parte del ricavato all'ospedale. Gli hanno sequestrato infatti i 17.000 euro che sarebbero dovuti essere girati all'ospedale, quindi il ricavato che era dovuto all'ospedale. Faceva visite in orari nei quali risultava al lavoro nell'azienda ospedaliera, timbrava con il badge elettronico l'ingresso per poi allontanarsi e passare il badge nuovamente per uscita. E fin qua lui si è dimesso, aveva dato le dimissioni giovedì con una lettera ai colleghi dopo 24 anni alla guida del reparto di chirurgia vascolare, e questo è uno. Andiamo al secondo, dove ci spostiamo a Catania, anche qui parliamo di medicina. Un dirigente medico in servizio del reparto di neonatologia, qui la vicenda è ancora più schifosa secondo me, se posso usare questo termine, perché si va a colpire l'angoscia, il dubbio, le preoccupazioni di una coppia che aspetta un figlio, o meglio soprattutto la madre, di sotto è lei che lo aspetta, però perché hanno beccato Alessandro Rodonò, che era il dirigente del reparto di neonatologia del presidio ospedaliero di San Marco di Catania, Alessandro Rodonò, arrestato dalla polizia su delega della Procura della Repubblica Etnea di Catania, con l'accusa di aver chiesto ai genitori di neonati prematuri somme di denaro per effettuare esami inutili che prospettava come necessari per valutare la condizione di salute dei loro figli. Cioè tu hai un figlio che è prematuro e giustamente ti preoccupi, e sto Rodonò, ecco perché io sono per la reintroduzione dei lavori, ci sono già i lavori socialmente utili, ma ancora ancora più utile, ancora socialmente più utile. Rodonò, dopo aver effettuato i controlli di routine a spese del Servizio Sanitario Nazionale, cioè a spese nostre, di chi paga le tasse, avrebbe prospettato ai genitori dei piccoli pazienti la necessità di effettuare ulteriori ecografie cerebrali, del tutto inutili, come poi dimostrato, approfittando quindi della preoccupazione generata nei genitori. E li faceva eseguire l'esame coronografico in regime intramenia e corrispondendogli quindi delle somme di denaro, cioè chiedeva soldi, adesso la dico fuori dall'indagine, chiedeva soldi per fare esami inutili approfittando dell'angoscia dei genitori che quando nasce un bambino magari prematuramente qualche dubbio lo possono avere. Un vero schifo, è un vero schifoso, così vediamo se anche Rodonò è querela, che tanto questo paese la querela parte per tutti, la querela per diffamazione la fanno tutti, anche uno come Rodonò può farla, e falla Rodonò. Allora, prospettando che in caso contrario si sarebbe rifiutato di eseguire l'esame, ecco, per farmi la querela deve uscire dagli arresti. Comunque, posti di fronte a questa alternativa, i genitori di fatto erano costretti a eseguire il pagamento della prestazione privata. Stanno indagando per individuare altre vittime. Ma non so, lavori forzati non mi piace, come dico a chi mi sta scrivendo, ma no, iniziamo allora a farlo lavorare, a fare, non so, mancano tante funzioni, infermieri, anche nell'ospedale, non infermieri importanti, ma dico, facciamo lavorare da qualche parte, sto Rodonò. Alessandro Rodonò, no, lo voglio ridire così, magari qualcuno lo conosce in ascolto e capisce con che personaggio va a cena, che amico ha. Ultimo, diciamo, ultima notizia della quarta posto in classifica, il Molise. Allora, attenzione, la mia battuta, massimo rispetto per il Molise, una regione, una terra bellissima e quant'altro, la battuta che si faceva anni fa era il Molise non esiste. No, il Molise esiste. Allora, siamo andati, sono andato personalmente a scaricarmi i dati Istat sulla distribuzione della popolazione molisana per età, sesso e stato civile. Perché? Perché avevo bisogno di capire esattamente a quanto ammontasse. Allora, che è successo? Hanno beccato vari accertamenti negli anni 2016-2017 120.000 persone che non pagavano il bollo auto. Sono finiti nel mio della regione Molise perché per 62.000 relativi al 2016 devono 14 milioni di euro, altri 62.000 relativi al 2017 sono altri 14, 28 milioni di euro che mancano all'appello. Ma limitandoci al 2016, tanto il numero più o meno uguale, sono 62.000. Allora, se uno prende tutte le fasce di età dei molisani dagli 0, ci sono le tabelle Istat, dagli 0 ai 19 anni, e immaginando che tutti gli altri guidino l'auto, quindi anche chi ha 100 anni, ci sono infatti anche fortunatamente 29 molisani che hanno 100 molisani che hanno più di 100 anni, 110, 1000 che ne hanno tra i 95 e i 99, 3800 tra i 90 e i 94, non so se guidano la macchina ancora. Comunque, pigliando anche tutti gli altri, viene fuori che chi potrebbe guidare sono circa 260.000. Immagino siano molti meno, molte persone non guidano, altre non possono più guidare, altre non hanno ancora fatto la patente, ma su 260.000 ogni anno almeno 63.000 non facevano il bollo auto. Ora, mi sembra una media un po' altina, uno su due, tre neanche, no, non faceva il bollo auto. Comunque, adesso vediamo se arriveranno i 28 milioni nelle casse della regione. Andiamo sul traffico e poi terzo, secondo e primo posto. Focus Economia. È pazzesco perché mi ha segnalato un ascoltatore che sul profilo penso Facebook di Alessandro Rodonò, il medico appunto che sfruttando le nascite premature faceva fare esami inutili, appunto uno schifo l'ho definito io, lui intanto però postava e lo scontrino del Senato della Repubblica in cui i prezzi sono a strage volati, per cui per mangiare paghi 7,60 euro al pasto, che per carità abbiamo sempre detto questa cosa, però vedete, questo è indicativo, perché in sto paese delle volte non c'è neanche la decenza di stare zitti, cioè tu stai lucrando perché ti hanno arrestato, non l'ho deciso io, stai lucrando sull'angoscia dei genitori quando hanno un figlio prematuro che nasce prematuro, E però ti fai bello attaccando la casta. E questa è la cosa, cioè, capito, che fa ancora più schifo. Almeno abbi la decenza di star zitto. Comunque, dai, andiamo al terzo posto, perché oggi, se no, fra un po' qualcuno dirà che la querela me la cerco. Andiamo al terzo posto in classifica. Mentre abbiamo raccontato tutti questi casi edificanti, ci spostiamo al terzo a Corsico, se riesco a trovare la notizia. Ora, io non conosco lo stato dell'arte del comune di Corsico, che è in provincia di Milano, ma ritengo abbastanza allucinante che la vicenda che vi sto per raccontare. Allora, lui è un ragazzo di 18 anni, affetto da tetraparesi spastica. È stato premiato, questa è la cosa pazzesca di questo paese, è stato premiato quest'anno, l'anno scorso, a maggio 2019, dal Presidente della Repubblica Mattarella con l'attestato d'onore di Alfiere della Repubblica, grazie al talento che ha dimostrato e al suo impegno nella difesa dei diritti dei disabili. Ora, voglio dire, in quale paese al mondo, io devo stare calmo oggi, ma in quale paese al mondo un disabile diciottenne premiato dal Presidente della Repubblica per l'impegno nella difesa dei diritti dei disabili e per il talento dimostrato, pur avendo appunto una tetraparesi spastica, non può da gennaio più andare al liceo perché la famiglia non riesce a pagare il pulmino che ogni mattina lo portava a scuola e lo accompagnava a casa nel pomeriggio. Che cosa è successo? Il servizio di contributi per la mobilità del comune di Corsico prima rimborsava per intero le spese per l'autobus. Ora prevede che una parte sia pagata dalla famiglia, che non se la può permettere. Il padre, lui si chiama Marcos, il padre è Alessandro Cappato, che ha adottato il ragazzo e ha due fratellini più piccoli. Marcos frequenta il liceo di scienze umane di Gian Battista Vico a Corsico, nel sud di Milano. Lo frequentava, dal 7 gennaio non può più andare a scuola. Il padre ha chiarito che a casa lavora solo lui, ha tre figli e non riesce a pagare quasi la metà della tariffa dei trasporti. In un paese che spreca quello che raccontiamo, e ho capito che il servizio del comune di Corsico, andiamo a vedere col comune di Corsico, è possibile che ci sia una possibilità di andare almeno sui casi più gravi? Cosa è successo? Nel 2018 il Comune di Corsico ha introdotto una novità per cui la domanda per la richiesta di contributo deve essere presentata ogni anno assieme all'ISEE, e fin qua tutto bene. Poi viene fatta una graduatoria divisa in fasce di reddito, pubblicata dal prossimo maggio, e a maggio saprai se hai diritto a metà del rimborso. Ora, già per una famiglia, io mi chiedo, non so quanti siano gli abitanti di Corsico, se andiamo a vederlo, ma è mai possibile che si bisogna aspettare da gennaio a maggio per sapere se quei soldi in parte ti verranno ridati o no? No, ma c'è, tutto normale. Poi il comune ha deciso di ampliare la platea dei beneficiari, includendo anche altre fasce di disabilità, venendo incontro a richieste di altre associazioni. Ora, la famiglia saprà solo a maggio se avranno diritto al rimborso e di quale entità sarà. Il padre sostiene che comunque anche metà del rimborso ha grosse difficoltà a pagarlo. Lui ha un blog che si chiama 50seconds.com con cui riesce a esprimere se stesso, ed era quello che il Presidente della Repubblica aveva premiato. Io non lo so, non faccio il sindaco di Corsico, comune, però vorrei capire veramente se nelle pieghe del comune non ci sia altra possibilità che caricare metà del costo su famiglie in questo livello e soprattutto dare la comunicazione a maggio. Comune di Corsico, nel passato ce ne siamo occupati e non in maniera edificante. Possiamo avere una risposta su questo? Magari dico a Milan di chiamare anche il sindaco e vediamo se lunedì il sindaco così ci degna di una risposta. Ah, giusto, Corsico commissariata, me l'ero dimenticato. E chissà perché commissariata, forse per le cose di cui ci eravamo occupati. Adesso vediamo, andiamo a fare una verifica su questo. Andiamo al Corsico Buccinasco. Di cosa stiamo parlando? Allora, qualcuno vuole che io mi occupi di Trenord, dell'appalto che è stato rinnovato. Boh, guardate, in questo momento non ho elementi per vedere uno spreco di denaro pubblico. La regione Lombardia ha rinnovato fino al 2030 per altri 9 anni l'affidamento per 5 miliardi in totale a Trenord per la gestione della rete ferroviaria senza gara. Vediamo, non è che Trenord, ci siamo occupati molto anche di Trenord nel passato, sperem. Però in questo momento non vedo elementi di spreco di denaro pubblico al momento. Sì, è certo che Buccinasco e i comuni li hanno chiusi per infiltrazioni mafiose, l'Andrangheta. Andate a vedervi il film Lo spietato, la cui base abbiamo usato Malamore, ma oggi mi sa che non riusciamo a usarla. Andiamo al secondo posto in classifica. No, qualcuno pensa che siano il secondo posto in classifica. Qua andiamo sul classicone, al piatto della tradizione, il piatto del buon ricordo, quello che chiamano in inglese signature. Sì, dai, becchiamo tatà. Argento e oro, partiamo dall'argento. Allora, ce ne sono già occupati anche i nostri GR24. C'è una cosa incredibile a Napoli. La metà delle linee previste in servizio l'8 gennaio, 60 autobus su 110, non hanno circolato a causa del rifiuto degli autisti per presunti problemi tecnici ai mezzi che avevano guidato il giorno prima, fino al giorno prima, e hanno guidato il giorno dopo. Sembra, c'è il forte sospetto, che fosse una ripicca, una ritorsione per quanto era successo la notte del 6 gennaio. Cosa era successo la notte del 6 gennaio? Ispezione a sorpresa dell'azienda nel deposito ANM del parcheggio Brin, beccano un autista sorpreso a dormire sull'autobus invece che essere in servizio e avviano una procedura disciplinare. È ovvio, nelle migliori tradizioni del sindacalismo che non sopporto in questo paese, che per prima cosa il dipendente è subito una vittima. Almeno vai a vedere che è successo. Racconteremo anche cosa dichiara il dipendente. Quindi non escono gli autobus. Tra l'altro beccano anche l'accusa di essersi impossessato, oltre che di dormire sull'autobus invece che farlo circolare, di essersi impossessato e di aver arredato con tanto di divano un monolocale all'interno del deposito degli autobus gestito dall'ANM e di cui solo lui custodiva la chiave. Faccio notare che l'azienda ANM è stata salvata dal fallimento con il concordato firmato dai creditori davanti al Tribunale di Milano poche settimane fa. E adesso i vertici stanno lavorando sugli abusi dei dipendenti. Ora, il numero uno, Nicola Pascale, amministratore unico, ha detto: credo che toccherà assumere comportamenti aziendali molto severi, e ci mancherebbe. De Magistris, il sindaco, a mio avviso giustamente, ha detto: noi non abbiamo salvato l'azienda per vedere un dipendente che si fa una stanza all'interno del deposito per dormire e per fare favore a qualcuno. Dopo il GR24 la spiegazione del dipendente, poi andiamo al primo posto in classifica. Nel frattempo continuiamo a raccogliere informazioni su Corsico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Queste canzoni. Torna Come nasce una canzone. Questa volta andiamo alla scoperta dei grandi classici della musica italiana, con gli autori, i compositori, gli arrangiatori, i produttori, insieme a me, Marta Cagnola, ogni mercoledì una nuova puntata, in esclusiva, in podcast, sul sito e sulla app di Radio 24. Fino al 25 gennaio vola da Euronics e scopri sugli schermi dei negozi Sulle ali dell'avventura. Puoi vincere una vacanza per la famiglia con Club del Sole e altri fantastici premi. Sulle ali dell'avventura, dal 9 gennaio al cinema. Regolamento su euronics.it. Tuta? C'è. Guanti? Anche. Paraorecchie? Due paia. Ok, andiamo pure al lavoro. Un vero professionista non smette mai di esserlo, nemmeno quando la temperatura scende a zero. Se scegli un veicolo Fiat Professional a gennaio, anche l'anticipo va a zero. Acquistalo ora e inizia a pagarlo ad aprile. Canone da 139 euro al mese, TAN 380, tasso leasing 388. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiatprofessional.it. Dottor Barter, cosa consiglia oggi alle aziende che ci ascoltano? Svuotare subito il magazzino dai prodotti in eccedenza, destinandoli al cambio merce pubblicitario. Allora, dottor Barter, ci dia la soluzione. Chiamate Gruppo Next. Realizzate campagne pubblicitarie in Italia e all'estero per acquisire nuovi clienti. Gruppo Next aumenta il business promuovendo il vostro marchio con tutti i media. Chiamate Gruppo Next e consultate il sito pubblicitaincambiomerce.it. Focus Economia. 18:06, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere la classifica e poi arrivare alla vicenda delle concessioni autostradali. Dunque, prima di continuare su Napoli e lo sciopero a sorpresa degli autisti di 60 autobus su 110, no, mi sono arrivate alcune cose sul Corsica interessanti. La prima, che molti mi scrivono quando facciamo la classifica, viene voglia di andare via, mi deprime. Ecco, questo potrebbe essere un elemento non di un po' di ottimismo. Stanno scrivendo moltissimi ascoltatori e mi ha contattato anche un imprenditore di cui non faccio il nome mentre ero in pausa su WhatsApp, che conosco bene, per chiedere a quanto ammonta il costo per trasportare il ragazzo disabile premiato dal Presidente della Repubblica per il suo impegno per sensibilizzare sulle disabilità, che dal 7 gennaio non va a scuola per il Comune di Corsico. Ha cambiato, abbiamo spiegato prima, il metodo di pagamento e a maggio farà sapere se può avere diritto alla famiglia al rimborso, che comunque sarà di metà. Il padre, che ha adottato il ragazzino e ne ha altri due, è l'unico che lavora, dice che comunque non riuscirà a pagare la cosa. Si stanno offrendo in molti, io adesso girerò a chi, però questo è un elemento positivo, perché dimostra che esiste un'altra Italia, ma ci mancherebbe, quella della nostra classifica è minoritaria, però un paese non può andare avanti solo su iniziativa dei privati. Quanto al Comune di Corsico, è vero, avete ragione, non seguo l'andamento tutti i giorni del Comune di Corsico. Il prefetto ha sciolto il 26 aprile 2000 dell'anno scorso il Consiglio Comunale e c'è un commissario, dopo che si era dimesso il sindaco Filippo Errante e non era stato approvato il bilancio entro i termini di legge. Faccio notare che il sindaco di Corsico che si è dimesso era finito alle cronache perché aveva vietato di cantare Bella Ciao il 25 aprile 2016, un grande questo, Filippo Errante, che è stato originario di Agira, in provincia di Enna, eletto nel maggio 2015, è stato sindacalista di lungo corso all'ATM, Azienda dei Trasporti Milanesi. Ma Errante era finito alle cronache per vari motivi. Da un lato c'era stata la sagra di Stocco, in odor di mafia, organizzata nel 2016 con il patrocinio del comune, e lì i soldi c'erano, e promosso da alcuni personaggi legati al clan dell''Ndrangheta, Barbaro Papalia. Poi ci fu la commissione parlamentare antimafia guidata allora da Rosy Bindi, che obbligò il sindaco ad azzerare la giunta all'inizio del 2017. Poi il Viminale obbligò l'insediamento di una commissione ispettiva della prefettura per indagare su eventuali condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa del municipio. Lui però si è dimesso per altri motivi, perché gli è mancata la maggioranza di Forza Italia su un emendamento di carattere urbanistico e quindi si è dimesso. Non ha pensato di dimettersi per gli altri motivi, ma ognuno poi si dimette per quello che vuole. Però è vero, è commissariato il Comune di Corsico. Torniamo a Napoli, perché, dicevo, della posizione di De Magistris e dell'amministratore unico dell'azienda municipale dei trasporti dopo quello che è successo. Cioè, da un lato l'ammutinamento, cioè improvvisamente il 7 gennaio andava tutto bene, il 9 gennaio andava tutto bene, l'8 gennaio, dopo che era stato fatta l'ispezione, 63 colleghi che appartengono alla stessa sigla sindacale dell'uomo beccato a dormire sull'autobus e con le chiavi del deposito dove aveva messo il divano, letto e quant'altro, monolocale, immagino per solidarietà, un po' difficile da capire visto che i soldi pubblici vi hanno appena salvato, cari autisti della NM di Napoli, senza concordato firmato con i creditori, l'azienda in un posto normale chiudeva. C'è poi stata un'intervista all'autista, Raffaele R. Punto, non vuole essere citato sul cognome, 47 anni, è alla NM dal 97, dopo che lì avevano lavorato suo padre e suo nonno. È l'autista sorpreso, lui dice: non è vero, stavo solo riprendendomi dal freddo, mi sarò rannicchiato un po', ma certamente non stavo dormendo. Ho capito, ma l'autobus, cioè, non si muoveva. Poi no, cambia idea, dice: non è vero, ho ritardato la partenza di una ventina di minuti perché l'autobus a metano, come capita spesso, aveva un problema di insufficienza d'aria. Ma insomma, era rannicchiato, c'era un problema di insufficienza d'aria, non capisco. Ho provato a risolvere accelerando per compensare la perdita d'aria, ho perso tempo, ha accelerato per 20 minuti. E la stanza, non è vero che è solo per lui, la stanza è attrezzata da noi lavoratori per avere un posto decente di sosta in pochi minuti tra una corsa e l'altra. Beh, vabbè. L'abbiamo raccolto al rei dalla strada, l'abbiamo pulita, era abbandonata, abbiamo messo il lucchetto solo per evitare furti. A parte che sto freddo artico a Napoli, mi risulta però. Devo stare buono, diamo il primo posto in classifica. And the winner is... Allora, hanno ragione molti genitori che scrivono: guardi che è un diritto il trasporto, non vogliamo carità. Io ho fatto notare che almeno mi riferisco al caso di Corsico, almeno è encomiabile che molti cittadini privati stiano scrivendo, offrendosi per pagare il servizio. Ma è chiaro che non può andare avanti così, però mi sembra che il problema dei comuni di Corsico sia proprio... Vabbè, allora andiamo al primo posto in classifica. The winner is, l'abbiamo già dato. The winner, lo rifacciamo The winner is, che non mi è venuto bene. And the winner is... Oh, torna il piatto della tradizione, la regione Sicilia. Perché abbiamo raccontato del buco che supera i 7 miliardi, ma ciò nonostante la regione, che ha segnalato qualche miglioramento, è diminuito il personale, ma non la spesa, e te credo. Allora, iniziamo ad andare con ordine. Quanti sono secondo voi i dipendenti della regione Sicilia? Lo dico io, non abbiamo tempo. 13.000 più 7.000 di altre partecipate, più qualche altro migliaio di altri di non meglio contati. Quindi siamo almeno a 21.000, sono 14.000 più 7.000 sparsi nelle partecipate, qualche altro migliaio disperso, adesso spero di no, ma insomma nella galassia pararegionale, neanche riusciamo a contare quanti sono. E diciamo, sono sui 23-24.000, perfetto. C'è un tasso di dirigenti 1 ogni 10, lo dico perché è importante questo. Quindi siamo più o meno a 2.400 dirigenti. Ora, la Regione Sicilia, nonostante i 7 miliardi di buco, e la Corte dei Conti che continua a dire guardate che avete 7 miliardi da ripianare, però la Regione ha deciso di riconoscere ai propri dirigenti un aumento di stipendio da 200 euro lordi al mese, in media, frutto di un rinnovo contrattuale a lungo atteso. Ora, io non metto in discussione che fosse da 14 anni, quanto era che i dirigenti aspettavano un aumento, però voglio dire... Dobbiamo anche collocare questo aumento. Ci sono un dirigente ogni 10 dipendenti, 1.300 dirigenti solo quelli diretti, beccheranno 200 euro in media in più. Lo stipendio dei dirigenti sono 209 euro lordi mensili per un dirigente. Gli stipendi di base oscillano tra i 45.000 e oltre 60.000 euro lordi annui. Poi però bisogna aggiungere dai 7.000 ai 36.000 euro annui per le retribuzioni di posizione, che è una cosa che mi sfugge, vabbè. E poi le retribuzioni di risultato. Ora, quando una regione ha 7 miliardi di buco, ma che retribuzioni per il risultato raggiunto vuoi dare? No, invece vengono date a tutti, come abbiamo già visto in altri casi. Ok? E quindi erogate a tutti. Il paradosso appunto è tra l'altro nella scelta degli uffici da potenziare, perché la regione ha deciso di potenziare i centri per l'impiego. Ora, dici, cosa c'è di male nel potenziare i centri per l'impiego? C'è di male che praticamente già la Sicilia da sola assorbe 1.737 dipendenti su un totale italiano di 8.000 dipendenti dei centri per l'impiego, cioè il 20% già lavora in Sicilia. Adesso Musumeci vuole assumere altri 1.200 in tre anni, con questa idea che purtroppo è presente anche nella parte che non mi è mai piaciuta del reddito di cittadinanza, che se tu assumi qualcuno per il centro per l'impiego, in automatico il navigator quello lavoro lo trova, come se il problema di trovare lavoro al sud fosse qualcuno che te lo segnala, forse manca il lavoro. Mi rendo conto che con 21.000 dipendenti, con 24.000 dipendenti, quello sia il lavoro. Ma che senso ha prendere altri 1.200 addetti nei prossimi tre anni sui centri per l'impiego, visto lo scarso risultato che stanno ottenendo? Meglio, posso immaginarlo, ma è meglio non dirlo. Motivi così, possono essere motivi anche elettorali. Comunque, un applauso perché la Regione Sicilia, voglio dire, ci garantisce, perlomeno all'inizio dell'anno, anche quest'anno, che riusciamo sempre a scalare le vette della poco invidiabile classifica. No, mi sto sorridendo perché c'è un ascoltatore che mi ha scritto: beh, la retribuzione di posizione pensavo si desse solo alle virtuose del Kama Sutra. L'ascoltatore si sta già preparando al programma che segue. Questo può essere, eh. la retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione, prona, supina, com'è sta posizione? Lino Leonardi, cofondatore di Zeppi Rent, buonasera. Buonasera. Dopo il traffico le chiederò cosa fa Zeppi Rent, chi è, insomma tutte le solite domande. 349-238-6666 per sms. Focus Economia. Allora, Lino Leonardi, quanti anni ha? Che cosa fa Zeppi Rent? Quanti siete? Quanto fatturate? Chi vi ha aiutato? Un fiorino. Ciao, ciao. Allora, Zeppi Rent, intanto parto da me. Io ho 26 anni, sono del 93 e appunto sono uno dei fondatori di Zeppi Rent. Siamo una startup che punta a digitalizzare l'intero processo di affitto di un appartamento, di una stanza per studenti o lavoratori. Oh. Quindi al posto ho fatto un appello proprio sul danno che stanno facendo gli Airbnb agli alloggi per studenti, nonostante... se ricordo bene fu il governo Renzi introdusse una legge che rende più facile, poi te lo dico male, ma insomma sfrattare lo studente nell'incubo che poi ti resti sempre lì. Abbiamo fatto un appello qualche settimana fa, attenzione che gli Airbnb stanno creando dei grossi problemi, non solo di social housing, cioè di case diciamo popolari, ma anche proprio per gli studenti. Comunque, che cosa fa Zeppi Rent? Sì, diciamo che noi appunto andiamo proprio nella direzione opposta di Airbnb, cioè portiamo gli appartamenti che sono in affitto a breve periodo a studenti e giovani lavoratori. Sì, diciamo medio periodo, quindi da qualche mese fino a qualche anno. Un mercato che sta esplodendo negli ultimi anni, che si posiziona tra l'affitto a lunghissimo periodo, quindi la classica famiglia che fa il 4 più 4 e il breve periodo che è appunto Airbnb. Quindi voi fate da intermediario tra chi cerca alloggio per un periodo medio, appunto, come di solito lo studente o giovane. 6 mesi, un anno. Senta, chi vi ha aiutato e quanto fatturate, quanti siete? Allora, al momento siamo in 8, siamo nati più o meno un anno e mezzo fa, quindi siamo molto molto giovani, abbiamo appena chiuso il primo round di investimento. Tra gli investitori abbiamo alcuni importanti imprenditori nel digitale come i fondatori di Facile.it, Prima Assicurazione, quindi Alberto Genovese, e anche il country manager di startup come Uber e BlaBlaCar. E abbiamo raccolto qualche settimana fa appunto un round da 2,5 milioni. Bene. Stiamo investendo con questo round nell'assunzione di nuove risorse, come dicevo, al momento siamo in 8, ma stiamo continuando ad assumere continuamente, soprattutto sviluppatori, per migliorare la piattaforma e quindi rendere ancora più veloce il processo di affitto e per espanderci a nuove città. Al momento siamo presenti su 4, prossima settimana apriremo anche Bologna, che è una delle città più complesse proprio per quello che dicevi tu, cioè l'Airbnb che non dà spazio agli studenti. Bologna è una delle città, se non la città più complicata, più in difficoltà in Italia. Sì, ma questo è un problema generale: Bologna, Venezia, Roma, Milano, Firenze, Catania. Senta, un'ultima domanda: lei cosa faceva prima? Io ho studiato. Che lei ha 28 anni, giusto? 26. 26, mi scusi, l'ho invecchiata. Sì. Prego. Non si preoccupi, per 2 anni. Io sono in ambito matematico-finanziario, ho fatto un master in trading matematico, quindi mi occupavo di questo campo qui, e durante quel periodo ho iniziato a gestire immobili, quindi di fatto facevo gestione di immobili per affitti a medio-lungo termine. Allora, lì, diciamo, ho visto entrambi i lati. Mi dica solo in un secondo, i dipendenti come li avete assunti? Sono partite IVA? Come sono? No, sono assunti. No, bene. Allora, nella speranza che aumentino i suoi dipendenti e che aumenti anche il fatturato di Zeppi Rent, anche perché, ripeto, il tema degli affitti per gli studenti e non solo, e i giovani nelle città, complice Airbnb, è a mio avviso un eccesso di libertà fornito Airbnb, perché insomma un sindaco avrà anche il diritto di occuparsi dell'eventuale spopolamento di alcune aree. Mi fa molto piacere questa iniziativa. Zeppi Rent, Lino Leonardi, cofondatore, assieme a suo fratello gemello Antonino Leonardi, in bocca al lupo. E adesso andiamo e cambiamo radicalmente tema in onore di Corsico. È vero che il film Lo Spietato è a Buccinasco, ma siamo sempre lì. Ritorna Malamore, dai. chiudiamo in bellezza, non tanto sulla cronaca, perché abbiamo visto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ne ho parlato ampiamente in apertura, in una lettera inviata ai Vigili del Fuoco e a tutti i provveditorati delle opere pubbliche, in cui si sostiene che ci sarebbero 200 gallerie superiori ai 500 metri a rischio lungo tutta la rete autostradale italiana. Presentano pericoli di incidenti e crolli, non sono impermeabilizzati, sono privi di sistemi di sicurezza, di corsie di emergenza, di vie di fuga, di luci guida in caso di evacuazione, e in pratica non a norma con la direttiva europea 54 del 2004. Figura anche la galleria Vertè, quella della 26, dove il 30 dicembre sono crollate 2 tonnellate di cemento. ISCAT, l'associazione delle concessionarie autostradali, replica: non sono 200 le gallerie a rischio. E poi anche qui invece sull'autostrada dei Fiori l'hanno chiusa ieri sera, però l'autostrada dei Fiori dice che non si è verificato alcun crollo di intonaco, né tantomeno di cemento, solo una piccola nuvola di polvere e di vernice, però i vigili del fuoco e l'autostrada l'hanno chiusa in direzione Torino fino a questa mattina. E il tutto mentre continua il dibattito dentro il governo tra revoca, revisione, mi sembra, chiedo conferma a Giorgio Santilli del Sole 24 Ore, buonasera Giorgio. Buonasera a voi. Che sia tramontata definitivamente l'ipotesi di una maxi multa come alternativa alla revoca o revisione. Tu oggi ne scrivi sul Sole 24 Ore, sembra quasi sinonimo, in realtà c'è una grossissima differenza tra revoca o revisione. Sì, assolutamente. La maxi multa è tramontata, forse non è mai esistita nella ridda di voci che riguardano ormai questo tema, questo dossier. Si era inserita. Forse per dire che una qualche forma di risarcimento, una tantum, avrebbe potuto aiutare a evitare la revoca, così non sembra che sia. Certamente revoca e revisione sembrano sinonimo, ma sono due cose molto diverse. La revisione è ridare le regole nuove, innovative a un sistema e quindi poi conseguentemente adattare le singole situazioni delle singole concessionari. Revoca vuol dire troncare di netto l'attuale, una delle attuali concessioni, perché sappiamo che poi quella sotto Chiaffo e Aspi, e quindi azzerare di fatto quel contratto, non rivederlo, ecco, non rivederne le regole. Ieri facevamo notare che, ma la mia posizione, a me non interessa nulla degli azionisti Benetton, però mi interessa dei dipendenti di Autostrade per l'Italia, perché se anche dopo il decreto mille proroghe la penale, diciamo, quello da pagare a Autostrade per l'Italia fossero non 23 miliardi ma 7 miliardi, c'è chi sostiene che questo comunque porterebbe in fallimento la società, che è una delle preoccupazioni di chi è contrario alla revoca tout court, oltre al rischio di dare un'immagine agli investitori internazionali che in questo paese si cambiano le regole in corso d'opera. Che orientamento sta prevalendo nella maggioranza? Ed è immaginabile, Giorgio, visto che tu sei uno dei massimi esperti italiani anche del settore trasporti, che tutti i dipendenti di Aspi, come abbiamo sentito dire, traghettino, diciamo, nella nuova società, non so, ANAS o quant'altro, cioè che non vi siano problemi occupazionali? Allora, prima risposta è quella sull'orientamento. Mi pare che sia ancora presto per dirlo. Il governo ha tentato nella giornata di ieri di chiudere un'ipotesi, fosse di trattativa, sembrava all'inizio, poi era prevalsa più l'ipotesi della revoca, però insomma alla fine una ultima riunione fatta da Conte con diciamo i rappresentanti delle quattro forze di maggioranza nel governo si è conclusa con nulla di fatto. Vedo che Zingaretti, segretario del PD, dice il governo non litiga su autostrade. Benissimo, però certo mi pare che sulla soluzione, almeno sul tema revoca, sul tema revisione forse c'è una maggiore omogeneità, ma sul tema revoca sappiamo che da una parte i 5 Stelle dicono assolutamente non c'è nient'altro che la revoca, dall'altra ieri Italia Viva ha ancora fatto, quindi i renziani hanno fatto uscire ancora una nota, dei commenti dicendo noi facciamo le barricate contro quell'ipotesi, quindi mi pare che ancora il governo ci abbia parecchio da lavorare. Sulla seconda questione, mi pare che sì, ovviamente i fatti nel momento in cui vengono imputati alla responsabilità di Aspi sono di una tale gravità che la revoca ci può anche stare da parte del governo. Io dico che però è una soluzione comunque ad altissimo rischio, vuoi perché lo accennavi tu, Basta anche solo citare il termine revoca e già i creditori di Aspi possono cominciare a chiedere un'accelerazione del rientro, il che comporterebbe difficoltà finanziarie molto serie, se non addirittura il fallimento dell'azienda. Quanto a cosa succederebbe nel momento in cui, fatta la revoca, bisognerebbe trovare un'alternativa? Io lì prevedo situazioni di grandissimo disagio, di grandi difficoltà, perché non è che passi 3.000 chilometri di autostrade all'ANAS, che già sappiamo non brilla particolarmente diciamo per la gestione delle strade. Poi adesso so che questa frase sarà contestata dalla società ANAS, però sostanzialmente anche all'interno del gruppo Ferrovie, anche lo stesso governo, non è che proprio siano tutti contentissimi di come si fa manutenzione o di quanti anni ci vogliono per far partire un'opera. Guardate, io lo dico a chi sta scrivendo, la linea è molto semplice, non me ne frega dell'azionista Benetton, a me interessano i dipendenti, mi interessa, essendo contribuente che pago anche il pedaggio quando vado in autostrada, mi interessa che poi la manutenzione, che chiaramente su cui è fallace l'Autostrade per Italia, venga fatta nella maniera più efficiente, facendo risparmiare i soldi ai contribuenti e alle casse dello Stato e facendo pagare gli azionisti che sono stati inadempienti nel modo in cui li si fa pagare. Basta che non diventi una bandiera solo ideologica per il consenso elettorale, perché poi nascono i pastrocchi da lì. Grazie anche a Giorgio Santilli del Sole 24 Ore, come sempre un augurio di buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando, e un ringraziamento a Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, malamore per chiudere. Thank you.